per cominciare la forma dell'acqua. Gli ascoltatori sono pregati di prendere posto. La forma dell'acqua, musica e intrattenimento su Radio Città Fujiko. E si parte in questo venerdì 20 ottobre per aprire le porte del weekend. È la forma dell'acqua che riprende come ogni venerdì la sua indipendenza, perché questo è chi fa da sé fa per te. E al microfono Elisa Iacobucci, che vi accompagnerà in una nuova storia di quotidiana sopravvivenza per dare voce a chi ogni giorno lotta per portare avanti i propri progetti. E sarà proprio la voce colei che prende il protagonismo di questa puntata, in particolare la voce di Valentina Matarrozzi. Buongiorno Valentina. Buongiorno a tutti, buongiorno a te Elisa. Valentina, guarda, devi sapere che io ho l'arduo compito di mettere anche un po', di testare gli ospiti di Chi fa da sé fa per te, per vedere se veramente sono coloro che dicono di essere, se sanno fare da sé. Testare o tastare? Non... Entrambe, in questo periodo. Iniziamo col tastare, così no, però io sono tra donne, quindi puoi stare tranquilla. Sì. In questo caso però, ti chiedo appunto di portarmi 3-4 brani per iniziare proprio da qui. Nel tuo caso ovviamente andiamo sul personale proprio. Esatto, cioè giochi in casa, perché esatto, la musica è la chiave di volta della tua vita fin dall'infanzia. Sì, dall'infanzia per forza, perché sono figlia di una musicista classica che mi ha infondato questo amore nella musica, e dopo varie traversie io dal jazz ho iniziato praticamente la mia strada musicale. Quindi insomma non un brano specifico, ma una passione legata a un genere musicale. Sì. Però immagino che tutto di solito nasce sempre con una curiosità che può nascere da un artista. Sì, infatti diciamo che le porte si sono spalancate con una grande artista, lo diciamo tanto. Tanto non è un segreto, tra poco insomma l'ascolterete. Esatto. È Diane Shure, che non è propriamente una jazzista, ma è stata conosciuta principalmente con la fusion, poi si è aperta al soul, al blues e poi per ultimo al jazz. Io ho tutta la sua discografia, è stata quella praticamente che mi ha trainato dal punto di vista anche costruttivo, musicale. Anche di io mi chiudevo in camera per ore e ore, l'ascoltavo e cantavo sopra. Quindi insomma, possiamo dire che è stata la mia prima insegnante. Lei non lo sa, però adesso lo saprà. Ma lei lo saprà, prima o poi lo saprà. Allora partiamo subito con il primo brano, che è Louisiana Sunday Afternoon, e questa è Diane Shure. The temperature is rising from the heat. I feel desire Love. una voce così non si può lasciar passare indifferente, soprattutto quando la passione che ti anima è quella poi che ti porta ad avvicinarti a quello che senti. Infatti per me è stato un amore grandissimo e continua ad esserlo, insomma. E poi bisogna dire che insomma Valentina è poliedrica, è un prisma vero e proprio. Sì, mi definisco prismatica sia sul lavoro che nella vita. Infatti già comunque adesso voi non la potete vedere, ma sprizza solarità da ogni poro, wow. Poi questo capello arancione che le dà così un sacco di luce, e non si vede solamente a livello estetico, ma vuol dire che viene da dentro, quindi si vede che è una cosa che ami fare. Ma sì, cioè, sono così. Quindi. Tra l'altro mi dicevi che il jazz è arrivato un po' dopo come genere musicale, però nel frattempo possiamo dire che c'è stata una persona in particolare che ti ha spinta a proseguire questa carriera. Sì, come ti raccontavo prima, sì. Praticamente, ma io non pensavo di farla cantante nella mia vita, finché per casualità non mi sentì un'amica di un'amica, una persona che aveva anche già una certa età, un certo bagaglio diciamo sulle spalle, e si emozionò e piangendo mi strinse a sé. E lì in quel momento ho capito che potevo fare qualcosa. Poi vabbè, io sono una capatossa, mi ci è voluto altro tempo in realtà per capire che era quella la cosa che dovevo fare, però alla fine l'ho fatta, insomma, e devo dire che ogni volta che mi sono allontanata dalla musica, poi mi sono ritrovata guardandomi magari di fianco o alle spalle, che c'era, era lì e ho detto che bello, mi aspettava, quindi la musica non mi tradirà mai, questo lo sappiamo tutti, infatti noi siamo qui a portarne alta l'onore. E insomma, dicevamo che sono tante le tue doti artistiche, infatti anche a livello caratteriale ti definisci prismatica, sì. Perché non riesci insomma a concentrarti solo e unicamente su una cosa. Non ce la faccio. E per esempio so appunto che ti sei avvicinata con il teatro, volevo capire se anche qui ti sei buttata, perché il fai da te mi ci hanno buttato proprio, diciamo. Perché io non pensavo di essere adatta, ma io non mi definisco un'attrice, per carità, perché chi fa l'attore veramente ha uno studio alle spalle pazzesco, cosa che io non ho avuto, insomma, ed è uno dei mestieri più difficili da fare. Assolutamente. È molto impegnativo, però nel tuo caso, avendo la musica, se dovessi fare per esempio un musical, riusciresti a inserire sia la parte attoriale che la musicale? Probabilmente, l'ho fatto in alcuni recital, non erano proprio un musical, infatti la prima cosa appunto vera e propria in teatro che ho fatto è stato proprio su Billie Holiday nel 2012 con Massimo Machiavelli, che fu lui a dirmi: ma perché non fai Billie Holiday con me? Io rimasi un attimo così: ma ne sei sicuro? E poi vabbè, mi è rimasto. E lì comunque l'hai scritto poi tu? Dopo ne ho scritta una io. Sì, ah, okay, sono due gli spettacoli prima... su Billie Holiday. È complicata la cosa. Poi dopo magari in evoluzione ne parleremo. Allora insomma possiamo dire che come Billie Holiday aveva il suo soprannome, quindi la Lady Day, anche tu hai il tuo, che è Validù. È Validù, sì. Sì, uno dei tanti, perché uno poi tanti. A scuola Valimatta. Andava per la maggiore. Perché dovete sapere che di solito gli artisti mettono da parte il proprio nome di battesimo per sceglierne uno d'arte, e nel tuo caso invece hai mantenuto il tuo nome di battesimo e inserito quello d'arte nel tuo album. Esatto, nel mio primo album. Sì, lo so, è strano come cosa, però del resto sono nata con quel nome e cognome, sarà un destino e deve essere quello il destino. Esatto. Quindi... E Validù è un progetto che è nato da brani che avevi già scritto e che mi hanno scritto, non sono scritto, tutti miei. Quindi è nato mano a mano, è stata un'evoluzione. Allora, guarda, è un po' un casino, adesso te lo spiego in poche parole. Ma aspetta, facciamo una cosa, facciamo sentire intanto un brano per aprire l'atmosfera. Va bene. Intanto iniziamo anche a capire lati del tuo carattere, che per esempio può essere l'ironia, quindi riuscire ad affrontare una tematica che può lasciare un po' di spine con il sorriso. Sì, quello per me l'autoironia poi è fondamentale, la mia sopravvivenza proprio. La sopravvivenza in questo caso senza paracadute. Un giorno che avrai scordato tutto su di me. Verrà un vento caldo che, accarezzandoti, soffierà tra i tuoi capelli nei pensieri. Uniti indissolubili, volavamo alti come angeli, ma una raffica di vento gelido ci ha portato via da questo mitico paradiso. Allora giù, andiamo giù, senza paracadute. E ancora giù, sempre più giù, cadiamo nel vuoto di questo idillio ormai finito. Questo vento caldo accarezzando il tuo viso sussurrerà le nostre promesse infrante, schiantate dalle nostre veleità. Capirai come me era necessario il volo in caduta che ci ha fatto scoppiare, stordire, soffrire per fuggire dal mitico paradiso. Allora giù, andiamo giù, senza paracadute. E ancora giù, sempre più giù, cadiamo nel vuoto di questo idillio ormai finito. Così eterno. E allora giù, andiamo giù, senza paracadute. Planiamo giù, sempre più giù. Eppure eravamo angeli una vita fa. Quanto tempo fa. Insomma, sicuramente possiamo dire che siamo un po' in bilico sul filo in questo sì, brano. Sì, è un'acrobazia. Un'acrobazia. Ma come è nata la scrittura di questo brano? Ah, di getto. Ma è anche un po' autobiografico. No, è autobiografico, altrimenti non sarebbe stata di getto. Vabbè, io sono una delle divorziate felici d'Italia. Su un momento infelice, poi dopo, vabbè, ho capito che forse era la scelta così. Giusta. Vabbè, era la scelta per forza. L'unica. L'unica scelta, purtroppo. Quindi anche tu ti sei trovata senza paracadute, ah, a strapiombo. Sì, sì, a strapiombo, e sono caduta e mi sono schiantata anche. Però poi mi sono rialzata, la musica mi ti ha salvato. E quindi sì, almeno riesci col sorriso a ripensare al passato, a sì. Prenderne... No, ma è stata un'esperienza importantissima. È stata forse la mia più importante esperienza della vita. E poi ti ha fatto anche riavvicinare alla musica e farti capire che forse era veramente quella la strada. Sì, l'unica strada anche in questo senso. Sì, anche quello. Però sicuramente, cioè, se tornassi indietro rifarei tutto quello che ho fatto. Quindi senza rimpianti? No, assolutamente. Beh, questo comunque non è da poco, attenzione. Sono una matta, Rozzi. La prismatica Valentina Matarrozzi, che è qui con noi su 103.1 e ci sta facendo praticamente mi sta facendo la scaletta, perché chi fa da sé deve fare anche per me a questo punto. Per te, per caffè, per me. Poi ti faccio il caffè se mi vuoi. Fai anche il caffè. Un orzo? Un orzo, va bene, guarda, allora adesso scusate, no, dobbiamo fare. Forse il caffè, dai, che ti svegli. Sì, ci svegliamo un po', poi facciamo l'aperitivo pronti per il pranzo. Okay. Ma in realtà, insomma, noi siamo qui per dare una notizia. Noi abbiamo cercato un po' di tirarla lunga perché volevamo tenervi sulle spine, ma la notizia bisogna darla. Aspetta, mi sfugge. Ti sfugge? Perché oggi è venerdì, venerdì, attenzione, venerdì 20 ottobre. Esatto. E esce un album. È un album importante, almeno per me. Poi. Beh, non solo per te, perché insomma abbiamo visto che più volte è riuscito a prendere applausi e plausi da tutta la città. Almeno sicuramente, e sì. È un po' un tuo omaggio a un artista che ti ha segnato in qualche modo. Sì, sì, sì. Lo diciamo allora. Lo diciamo. Esce I Am Billie. Wow. Tribute to Billie Holiday. Che bello. Quindi ricollegandoci anche alla tua esperienza di teatro, dove appunto hai portato Billie sul palco, sì. Questa diciamo è una raccolta dei brani legati allo spettacolo. Sì, in realtà allora rispetto al primo spettacolo non ci sono, cioè ci sono delle differenze. Rispetto invece al poi lo spettacolo che ho scritto io, che io sono Billie, infatti poi il titolo anche dell'album si rifà a quello spettacolo. Lì allora già c'è un po' più di analogia, diciamo, sui brani. Ritorna. Ricordiamo che l'album è pubblicato all'etichetta Azzurra Music di Verona, sì. E come protagonisti, oltre alla tua splendida voce, c'è anche Francesco Cavaliere alla chitarra e Igor Palmieri al sax tenore. Esatto, e lui raffigura la figura di Lester Young. L'amico vicino. L'amico Billie. Confidente, e lì poi vabbè, ognuno ci ha ricamato sopra. Sì, forse amico. Hanno avuto una storia, forse no, ma chi se ne frega? Si volevano un bene dell'anima, è stato il vero fratello, compagno di vita, l'unico uomo che veramente ha amato Billie Holiday. L'unico uomo. Sì. Diciamo che ha avuto una vita molto difficile fin dall'infanzia, quindi anche il suo rapporto con gli uomini poi è sempre stato abbastanza sì, impegnativo. Purtroppo difficile. Ci sono cose dall'infanzia che ti segnano per sempre. E rimangono se non hai la possibilità di fare una pulizia, diciamo. E lavorarci sopra. Purtroppo poi allora diciamo che le filosofie orientali non erano molto masticate, no, soprattutto esatto. Da quelle parti, quindi insomma. Ha avuto sì, un bel coraggio. E tu, sì. Diciamo, il passaggio da Diane Shore a Billie Holiday è stato lungo? È stato lungo e tortuoso, perché allora io sono assolutamente curiosa. In realtà Billie l'avevo già sentita, come avevo già sentito Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, ma anche altre, Nancy Wilson, Carmen McRae. Però sì, l'ascoltavo con distacco. Con distacco non afferravo tutto quello che poi dopo, studiando la sua vita, studiando le sue emozioni, la sua caratterialità, ad approfondire, ho approfondito, a intuire meglio. Esatto, e dopo veramente adesso quando l'ascolto l'apprezzo molto di più, mi è entrata dentro in maniera viscerale proprio e... Oh, diciamoci la verità, lei è stata quella che ci ha insegnato veramente a cantare, perché lei canta col cuore. Veramente, infatti dicevano appunto che chi poteva ascoltarla spesso poi usciva praticamente dalla sala in lacrime, sì, commosso, sì. Anche dagli studi di registrazione quando registrava era una commozione, aveva veramente l'anima durante sì. Il canto. Allora noi facciamo una cosa, visto che appunto Billie ci coronerà anche la prossima mezz'ora in modo da approfondire anche l'album, mm-hmm. Noi adesso facciamo lo stacco pubblicitario, ci godiamo un Me, Myself and I in stile Chi fa da sé fa per te di Billie Holiday. Holiday, e noi ovviamente ci vediamo tra poco, perché Valentina ce ne deve raccontare, ha voglia se ce ne deve raccontare. Aiosa. Me, myself and I are all in love with you. We all think you're wonderful, we do. Me, myself and I have just one corner.